che botta. Madonna mia, mi scoppia la testa. Sei distrutta, si vede. Beh, non è che la tua faccia sia tanto meglio in ogni Sono caso. Sono piegata, ho assolutamente bisogno di trovare un posto in cui sedermi. Comunque questa città spacca, ti posso dire. Medellin, veramente, veramente un posto incredibile. Sì, incredibile, però la droga che gira spacca troppo. Sì, se poi continuiamo a farcela tutta, spacca ancora di più. Ascolta, ma tu non hai fame? Sto morendo. Ma che quel facciamo? Posto? Quel posto tu riesci a leggere, io sto troppo in botta. Sopita de Frioles de Donna Sonia. Sembra lurido però, eh. Sembra bello lurido. Sembra però... bello lurido, però c'ho fame. Anch'io, poi c'è posto dentro com'è? Ma ci stanno solo due posti, c'è un odore strano, io direi che possiamo... Dai, andiamo. Vai. Andiamo. Sopita de frijoles, no, dos sopita de frijoles, por favor. Benvenidas, chicas. Questa zuppa la fanno da tantissime generazioni. I miei avi, voi arrivate da così lontano, quasi dai margini di questo mondo. Tenete pure, sfamatevi. Grazie. E che buona fortuna sia con voi. Ma secondo te perché è un po' verde? Boh, saranno le spezie. Qua mangiano tutto col coriandolo, non lo so. Però senti l'odore. Sento. Mi dà un po' alla testa questa, sono ancora fatta. Secondo me siamo ancora fatte, però non c'è altro da mangiare. Ci sta pure scritto nel nome, sopita de frijoles. Ci tocca questo. Proviamo. Però... mamma mia! Non mi sento benissimo però, eh! Ai ai ai! Maro, donna Sonia! E non ci sta neanche il bagno! Oh no, e adesso? Ai ai ai! E adesso? E mo? Io non reggo. Neanche io. Qui non c'è niente. Tu. Chi sei? Sono il nulla cosmico. Dove vai? Vado punto lì. Cosa cerchi? La biochetasi. Cioè...